Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Roberto Napoletano, 50 anni, sposato con un figlio, ex direttore del Messaggero, oggi dirige il Sole 24 Ore che ha rivoluzionato, trasformandolo nel primo giornale digitale del paese. È qui perché ha scritto Viaggio in Italia, un libro bello, toccante, umile e agrodolce, che ci aiuta a superare la distanza tra il palazzo e le persone, dando loro la parola in presa diretta. Caro direttore, da italiano credo nell'Italia. Io stesso voglio essere un'opportunità per il mio paese. Noi ci siamo e siamo da Reggio Calabria, città in cui ultimamente sembra commissariata anche la speranza. Sono a casa. Un disoccupato giovane vale uno. Un disoccupato con famiglia vale più. Non le viene il sospetto che se l'Italia non è stata capace di selezionare una classe dirigente, la colpa sia anche della sua società civile? Direttore, è vero anche questo? Assolutamente sì. Ecco, ma è stato un viaggio più agro o più dolce? Più agro. Perché? Perché questo paese sta soffrendo, soffre in profondità, e la sofferenza è entrata nelle famiglie, è entrata nelle coscienze, e quindi bisogna parlare con chi soffre, ascoltarli, e soprattutto bisogna rispondere con i fatti. Ecco, ma le persone che lei ha descritto nel libro non sono mai dei vinti, non si arrendono, ma vogliono verità. Ecco, quale verità vogliono? Io credo sempre a una piccola importante cosa. Se io sono a casa a cena la sera e parlo con mia moglie e mia moglie mi dice che sta perdendo il posto di lavoro, parlo con mio figlio e ha perso la speranza di trovare il posto di lavoro, e apro la televisione, qualcuno mi dice che c'è la ripresa, io non ritrovo la fiducia, io mi arrabbio. Ecco, ma il primo livello però di classe dirigente che deve dire questa verità e non bugie è la politica. Senza una buona politica non c'è speranza. Da quando manca una buona politica? Manca da molto tempo, però voglio dire che nel libro questa richiesta di buona politica, e qui c'è la speranza del Viaggio in Italia, viene dai giovani. Una sera a Merate ho incontrato i ragazzi di due licei, siamo usciti a mezzanotte perché suonava la sirena, e quando entro in macchina un ragazzo mi insegue e dice: direttore, mi scusi, ma perché dovremmo pagare sempre meno i nostri politici? Non dovrebbero essere i migliori? E allora quelli che ci salvano, io scendo perché ho paura di aver capito male, temo di aver capito non bene, il ragazzo insiste, e allora io dico: i nostri politici li paghiamo anche troppo per quello che hanno fatto e soprattutto per quello che non hanno fatto. Ecco, però la richiesta che veniva da quel ragazzo era proprio di buona politica, e questa è la sfida cruciale per il nostro paese. Ecco, ma la buona politica, se c'è, decide, l'ha detto anche lei, ma è la squadra che realizza la buona politica. C'è una squadra intorno al premier oggi? C'è un sottosegretario che stimo e apprezzo, Del Rio, ci sono delle individualità, non c'è la squadra. E deve attrezzarsi per farlo. Ma mi fa un esempio di cosa intende lei per squadra? Io posso semplicemente dirle che in situazioni analoghe a quelle attuali, quando il paese soffriva molto nel dopoguerra, abbiamo avuto certamente De Gasperi, abbiamo avuto certamente Fanfani, ma dietro De Gasperi, dietro Fanfani, c'erano uomini del fare come Menichella, come Pescatore, come Bernabei. Questi uomini sono necessari. La macchina dello Stato è la sua macchina, e lui, se non si fida di quelli che ci sono, li cambi, ma trovi persone capaci. Ecco, direttore, ma se la politica decide, noi giornalisti, noi dell'informazione, la raccontiamo la verità? Noi dobbiamo raccontare la verità, ovviamente possiamo sbagliare come tutti, però io posso parlare di me, posso parlare del Sole 24 Ore, e credo che la storia di questo giornale, che è una storia di un grande successo, perché nessuno dei giornali economici europei vende quanto vende il Sole 24 Ore, io credo che abbia l'origine in quello che diceva uno dei vecchi di questo giornale: abbiamo garantito un racconto veritiero del paese. Ecco, però, direttore, senta, a proposito della verità e dell'esempio, che cosa mi diceva 30 anni fa Montanelli sul nostro mestiere? Ecco, lei però ha detto: il giornalismo italiano è servo. Di chi è servo? il giornalismo, tutta l'intelligenza italiana ha una vecchia tradizione di servilità, come è logico, perché si è sviluppata in un paese analfabeta, certo, per secoli e secoli analfabeta. Non avendo il lettore, doveva per forza procurarsi il protettore. Ecco, scriveva per il protettore. Ecco, ragione Montanelli. Beh, io credo che la libertà è un qualcosa che dobbiamo conquistare e ognuno si prende la sua libertà. Io me ne sono presa sempre tanta e credo che questo giornale che dirigo lo faccia. Ovviamente possiamo sbagliare. Vabbè, qualche problema in generale nella stampa ci sarà, la stampa dell'informazione. No, ma assolutamente, Montanelli parlava del giornalismo e dell'intelligenza. Certo. Parlava di un certo atteggiamento culturale. Esatto. Ed è evidente che in un paese che ha i problemi che ha, l'informazione non si può sottrarre le sue responsabilità. Quello che è importante è riconoscerle e, quando si è sbagliato, correggere. Senta, però, girando per l'Italia come ha fatto lei, ha sentito che gli italiani sono aiutati dall'informazione a capire la verità oppure no? Io devo dire che gli italiani soffrono indipendentemente dall'informazione. Certo. Però noi abbiamo il dovere di dire le cose come stanno, di separare la fuffa dalla sostanza. Questo è, diciamo, il senso del nostro modo, ecco, di fare. Lei dirige un giornale di numeri, di analisi. Che cosa ha imparato per il suo giornale da questo viaggio? Che i numeri e le analisi, non è vero che non hanno un cuore e non hanno un'anima, aiutano a capire come stanno le cose, e quindi bisogna ascoltare, collocare il racconto, entrare nei bar, entrare nelle scuole, entrare nelle università, ma anche fornire al lettore di un libro o di un giornale i termini comparativi. O della radio, visto che siamo alla radio. O a un radioascoltatore o a un telespettatore, tutti gli elementi comparativi che consentono di giudicare quel fatto e collocarlo. Quindi poca dietrologia e tanti fatti. Meno, più scena che retroscena. Cioè, io devo lavorare con la cultura della retroscena, io devo fare l'inchiesta, devo entrare, devo scavare la notizia, cercarla quando è nascosta e denunciare senza riguardi per nessuno. L'unico riguardo che dobbiamo avere è proprio quello della verità. Senta, dietro, a proposito di verità, allora, adesso gli americani ci raccontano che nel 2011 c'è stato un golpe contro Berlusconi guidato dalla Merkel, non solo, cui Obama si è sottratto. È un tema forte su cui dire la verità oppure no? No, è un tema forte su cui è opportuno dire la verità. Voglio però ricordare che di quel golpe, di quel complotto, si parlò anche a novembre del 2011, fu ovviamente smentito. Però questa volta è stato un ex ministro americano che ne parla, quindi forse la forza è maggiore. Assolutamente sì, ci sono versioni ovviamente contrastanti. Quello che c'è dietro questo racconto è una reale crisi di rapporti tra l'Italia e i tedeschi e i francesi. Ma si sa tutto di quel periodo, secondo lei, di quel golpe, di quel fatto, insomma. Ma certamente non si sa tutto quello che si deve sapere. Certamente oggi si è fatto un passo avanti, però io vorrei raccontare voglio farle io una domanda, scusi. In quei giorni lei ha scritto un famoso articolo sul Sole 24 dal titolo "Fate presto". Ecco, si rivolgeva a chi voleva far fuori Berlusconi? No, guardi, su questo è un punto molto importante e va chiarito con precisione. Le due cose sono totalmente distinte. Perché? Perché i fatti di quei giorni erano che non solo lo spread era arrivato a 575 punti e i titoli a 10 anni venivano collocati oltre il 7%, il che vuol dire che lo Stato italiano avrebbe potuto collocare questi titoli per un breve termine, ma sul mercato secondario i bot a scadenza ravvicinata venivano scambiati a tassi ancora superiori al 7%, all'8%, al 9%. Questo sa quando accade? Accade quando i titoli scottano, quando si inverte la curva dei rendimenti, vuol dire che si ha un passo dall'essere la nuova Argentina e la nuova Grecia. Però la Bundesbank ha venduto di miliardi. No, non facciamo confusione. In quel momento l'Italia, nella convinzione sbagliata dei mercati, era un passo da un'insolvenza. E quindi il titolo che abbiamo fatto "Fate presto" esprimeva il rigore algebrico del Sole 24 Ore. Senta, ma da quel momento in poi, però, prima con Monti, di cui sappiamo tutto del suo Loden, poi con Letta, di cui sappiamo benissimo che sa perfettamente inglese e francese, le cose sono peggiorate, non sono migliorate. No, sempre colpa di Berlusconi? No, guarda, lasciamo perdere Berlusconi e Monti. Chiariamo il punto precedente. Voglio raccontare, io quel giorno feci quel titolo sentendo autorevoli rappresentanti delle istituzioni monetarie, tantissimi ne ho sentiti. Posso rivelare una telefonata, quella del governatore della Banca d'Italia, perché attuale? Sì, attuale governatore della Banca d'Italia, perché la rese pubblica in un colloquio con il Sole 24 Ore. Quando feci fate presto la raccolta dei nostri editoriali, disse lasciamo perdere. Quando c'erano difficoltà a fare il nuovo governo Letta, in quei giorni disse raccontiamo, e lui ha detto semplicemente un fatto che era sotto gli occhi di tutti. A novembre 2011 gli italiani hanno corso un rischio enorme e reale, che hanno rimosso semplicemente perché all'ultimo istante non si è materializzato. Attenzione, questi rischi possono tornare. Per quanto riguarda Monti, questo giornale ha chiesto un governo politico, un governo che riunisse le forze politiche, le affidasse la guida a uomini che conoscevano la lingua degli stati e dei mercati. E dobbiamo dire che nella prima fase il governo Monti ha evitato che l'Italia diventasse una prima fase corta, una primissima fase che l'Italia diventasse la nuova Grecia o la nuova Argentina. Poi l'abbiamo criticato subito e l'abbiamo criticato con puntualità, senza senta musica. però sul l'euro non ha ascoltato il grido che veniva dall'economia reale. Ecco, però sull'euro e sulla Germania oggi molti dicono, forse perché siamo in campagna elettorale, però molti dicono le stesse cose che diceva Berlusconi allora. E allora? Ha detto lei, la risposta è che siamo in campagna elettorale, però è vero che l'Europa deve cambiare. Questo al di fuori della campagna elettorale. Da tempo i maggiori europeisti italiani chiedono che finisca questa stagione di eccesso di rigore, e io credo che ci siano le condizioni anche politiche, anche dentro la Germania, perché le cose cambiano. Io ho notato un grande mutamento quando è venuto da noi ospite. Ma per via dell'ingresso dei socialdemocratici nel governo? No, anche, perché è cambiato il sentimento dell'impresa e della società tedesche, quando, e anche della finanza. Quando è venuto da noi ospite a Sole 24 Ore il governatore della Bundesbank, Weidmann, ha ripetuto tante volte che non era d'accordo con Draghi. Oggi dice che è d'accordo. Il problema della domanda interna riguarda tutta l'Europa, ma tocca anche la Germania. Senta, direttore, adesso lei scrive che Renzi, l'ha scritto recentemente, che Renzi entrerà a Palazzo Chigi dopo le elezioni. Cosa vuol dire? Che se Renzi ha un buon risultato elettorale può fare il capo del governo. Oggi fa il capo del governo, ma insegue il voto degli italiani. E cosa si aspetta che faccia allora dopo le elezioni, se le vince? Che si trovi prima di tutto degli uomini, una bella squadra, come ha detto. E poi soprattutto che faccia subito un intervento forte, concreto, a sostegno dell'economia reale. Ecco, però lei dirige il giornale della Confindustria Sole 24 Ore, questo. Ma a produrre queste macerie morali di cui parla lei nel suo libro, quanto hanno contribuito gli imprenditori italiani che hanno succhiato dalla mammella dello Stato senza paura? L'ho detto tante volte, lo ripeto adesso, non si può più parlare genericamente di imprenditoria. Esiste un'imprenditoria assistita, corrotta, che ha fatto patti scellerati con una classe politica corrotta, che ha una grave responsabilità nella crescita della spesa pubblica, improduttiva, nella crescita del debito e nella crescita di una cultura patologica. Ma esiste anche una imprenditoria italiana, una grande imprenditoria italiana, che conquista ogni giorno quote di mercato fuori dall'Italia, che fa investimenti in ricerca e innovazione, che esporta per 400 miliardi oltre 100 di attivo. Siamo ancora i primi nella meccanica di precisione, nella meccanica strumentale, nel legno arredo, nel sistema moda. Ricordiamoci di questi. Ecco, di questi qua si deve ricordare il presidente Renzi. Deve capire che questa imprenditoria eroica, che regge il confronto con una burocrazia, è la forza dell'Italia. E su questa bisogna investire. Senta, ma l'Expo è una nuova Tangentopoli? Certamente può essere anche qualcosa di peggio di una nuova Tangentopoli. Perché? Perché gli uomini Tangentopoli, Mani Pulite, ha messo a nudo un sistema di finanziamento illecito dei partiti. Qui siamo di fronte a ruberie pesanti, a volte contro i partiti, a volte con i partiti, e soprattutto sono passati più di 20 anni. E non è possibile, non è possibile che dopo più di 20 anni non siamo sempre lì. La situazione è peggiorata. Quindi c'è un qualcosa di profondamente serio che dobbiamo rimuovere. Senta, ma basta Cantone per fare questa operazione così miracolosa? No, perché a Cantone bisogna dare i poteri straordinari che chiede, perché se faccio gare straordinarie, chi controlla sulle gare straordinarie deve avere poteri straordinari. Questo serve per salvare l'Expo. Attenzione, questo non serve per cambiare il paese, perché anche con i poteri di oggi qualcuno doveva e poteva accorgersi che si stava continuando a rubare. Nel libro parlo di milanesità ferita dai vecchi nuovi scandali. Non sapevo che c'era una seconda puntata, però raccontavo così, passeggiando per Milano insieme a quello che veniva definito compagno, quasi l'attendente di Gaetanino Feltra, raccontava tutto dove lo vedeva e raccontava soprattutto l'orgoglio di questo uomo del sud che era felice per essere considerato un milanese vero, un milanese di una città, capitale europea, capitale del lavoro, capitale morale. Senta, ma intanto l'economia reale dà segnali drammatici di recessione invece che di crescita. Siamo di nuovo a fate presto? Beh, dal punto di vista dell'economia reale non abbiamo mai abbandonato fate presto. Questo paese è fermo da molto tempo, troppo tempo. Questo paese, abbiamo pubblicato l'altro giorno i dati, le infrastrutture, più 20% in Germania, in Francia, meno 15% da noi. L'economia deve ripartire in questo paese. Ecco, ma a questi imprenditori di cui parlava prima, serve il Renzi che sfida i sindacati oppure no? Beh, serve il Renzi che sfida i sindacati. Perché? Perché la concertazione, che ha avuto una stagione altissima con il governo non Ciampi, serve più. Con il governo Ciampi, ci ha consentito di uscire dal virus dell'inflazione a due cifre. Oggi si è tradotta in una estenuante melina: concertare, parlare, discutere, ragionare, l'importante è non decidere mai. Il paese ha bisogno di decisioni. Senta, direttore, torniamo al suo libro Viaggio in Italia. Mi ha colpito molto questa lettera di Mauro Brivio, presidente degli studenti del Politecnico di Milano. La mia generazione ha paura del proprio futuro. Non credo possa trovarsi un indicatore più significativo per certificare lo stato di malessere di un paese. È possibile liberarsi da queste paure? Sì, è possibile. Noi dobbiamo... Molti ragazzi, allo stesso Politecnico, nello stesso libro, racconto di ragazzi di Ragusa che si mettono in fila la mattina, vanno al Politecnico, studiano molto e hanno voglia di affermarsi. E lo stesso per altri ragazzi del sud che vanno alla Cattolica, lo stesso per molti ragazzi milanesi. Per liberarsi dalla paura noi dobbiamo, io quando si parla di fuga dei cervelli non sono d'accordo, dico che i ragazzi migliori che sono in Italia, che escono dalle scuole e dalle università italiane, vanno a vivere e lavorare dove ritengono di vivere e lavorare meglio. La nostra sfida è trasformare l'Italia nel luogo dove si vive e si lavora meglio. Quanti anni ha impiegato per fare questo libro? Quasi 3 anni, perché di settimana in settimana, poi ci sono state anche, come dire, interruzioni, però l'idea era di viaggiare con un taccuino, di annotare dove andavo, di cercare, di entrare nel bar. E quindi in ogni città ha trovato... Ho trovato quello che mi ha colpito e l'ho raccontato. Ma per esempio di città in città, facendo delle sintesi? Io sono partito da Trento, a Trento la crisi è arrivata di striscio. E di lì fino? Fino a Pantelleria, a Scauri, da questo tabacchino che l'altro giorno mi ha mandato una mail e mi ringraziava perché si sentiva parte di un'Italia che unita non è. E comunque la porta d'ingresso del tabacchino si chiamava Trasuta, quindi il vocabolario non è europeo, è rimasto quello che era. Ma nel frattempo siamo passati per quella che io chiamo la dignitosa tristezza di Torino. Quanti sono i torinesi che aspettano che si chiudano i mercati regionali per rovistare nel cesto della frutta e portare qualche frutta avanzata a casa. La sofferenza della gaudente Parma mi ha colpito da morire, perché è una città ricca, allegra. Quando senti i presidenti industriali che l'anno prima ti aveva detto che Parma aveva superato i livelli di crisi, per cui tornando a Milano ero convinto che se Parma si è salvato, si è salvato, l'anno così. Dopo c'è un bollettino di guerra. Disoccupati, cassa integrazione, edilizia ferma, e lì c'è la piccola speranza quando Borri cita Pietro Barilla, chiedo scusa, e dice guardiamo al futuro, avanti con coraggio. E mi pare importante, ma poi c'è la Milanesità ferita, di cui ho raccontato, c'è Roma che non è quella che dovrebbe essere, la Roma sicura, una Roma diciamo piena di buche. Bisogna raccontare la realtà. Certo, le responsabilità non sono tutte di oggi, ma oggi sono profondamente aggravate. C'è un vicolo chiuso che io vedo. Napoli è un vicolo chiuso e lì si racconta questa sofferenza, ma io vorrei raccontare anche quello che ho visto nel sud di dentro, nel mio sud di dentro, facendo 7 chilometri a piedi da Nola, cuore stradale della Campania, al primo paese della provincia di Avellino dove riposa mio padre, e camminando con mio cognato guardavo il paesaggio intorno, ci ho vissuto non tantissimi anni, sono arrivato alla fine del liceo, e dico guarda che casa e terreni non formano più una frase, e lui dice hai ragione, perché sono spariti i terreni e si sono allargate le case, sono i piccoli grandi soprusi, i piccoli grandi condoni, le pezze a colori del nostro sud di dentro. Ma umanamente che cosa le ha dato questo viaggio? Tantissimo, perché mi ha dato la percezione fisica di quella che è lo stato d'animo del paese oggi. Senta ancora per finire cosa ci ha detto questa ragazza, la lettera che era scritta. Caro direttore, dopo tanti anni di sacrifici mi sono laureata in conservazione dei beni culturali a Napoli. Al suor Orsola Benincasa, che mi ha dato un'eccellente formazione, mi sono messa in gioco da subito, trasferendomi a Firenze ma con un piede a Roma. Ma dopo tanti colloqui senza esito, dopo lavori non pagati, dopo tanti ti faremo sapere e più di 200 curricula inviati al mese, ho dovuto lasciare Firenze. Non sapevo più come mantenermi e sono dovuta tornare dai miei genitori in Calabria. Voglio che lei sappia che ogni mattina mi sveglio e piango, ma non sono l'unica. Piango disperata non perché io mi sia arresa, ma perché ho perso di vista i miei obiettivi, la mia crescita personale, la mia curiosità. Per fortuna non il coraggio. Sono come un giocatore di scacchi che si sente sotto scacco e cerca la mossa giusta per liberarsi e rimettersi in gioco, ricominciare a costo di dimenticare chi sono. Ecco, direttore Napoletano, nella notte dei musei a Roma non si riuscivano a trovare 3 addetti per tenere aperti il Colosseo. Quella ragazza piange ogni giorno. C'è qualcosa di drammatico in questo? Sì, c'è qualcosa che non va in questo paese, ma di serio, e soprattutto nei beni culturali, soprattutto in questo grande capitale dimenticato che è la vera risorsa di questo paese. Ecco, parliamo di questo allora. Intanto non possiamo né restaurarla come Diego della Valle voleva fare col Colosseo a Roma perché la burocrazia lo impedisce, né affittarla come a Firenze, perché se si affitta a Ponte Vecchio si grida lo scandalo. Pubblico e privato non dovrebbero essere il motore di questa rivoluzione che ha i beni culturali al centro. Ma la prima cosa che serve un decreto, una legge che attribuisce il credito d'imposta vero a chi investe nella gestione dei beni culturali, a chi fa innovazione. Questa è una delle cose concrete che dovrebbe fare il Presidente Renzi, perché diciamo nel mondo noi siamo conosciuti per quello che abbiamo rappresentato. Sì, ma se non riusciamo a valorizzare queste cose è tutto inutile. Assolutamente sì, però ripeto, abbiamo le risorse umane, abbiamo il capitale, siamo stati meno bravi a sfruttare questo capitale. Senta direttore, alla fine di questo suo viaggio in Italia tra macerie e speranze, che cosa ha trovato di più? Ho trovato tante macerie, ma sono convinto che su queste macerie può nascere la speranza. Per costruire il bene bisogna conoscere il male, e per costruire il bene non bisogna spargere facile ottimismo, bisogna dire le cose come stanno. Abbiamo bisogno di persone che la smettano di nascondersi e comincino a sporcarsi le mani. Grazie. Mix 24. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, per gli sms. Allora Mario, che titolo faresti per l'intervista di Roberto Napoletano? Il realismo del cuore. E tu Pietrangelo? Le parti di un'Italia che unita non è. E allora musica, musica maestro. Pulenta e galena fregia, e un fantasma in sulla veranda. Barbera come Petroli, e anche alla luna me par che sbanda. Cadrega che fa frecas. Pietrangelo, non ci credo che in metropolitana cantavano questo. Sì, sì, sì, tanta polenta e gallina fredda in metropolitana stamattina. E perché poi, vedi, c'era il fantasma sulla veranda, la radio, noi, immagino, no? La nostra radio che graffia l'aria. E poi non è vero che nel silenzio dorma la malinconia, ascolta il vento che bussa sulla porta, e il vento bussava, bussava proprio in metropolitana. Davide Van der Sproos, un grandissimo, un poeta unico, perché in metropolitana sono tutti poeti. Senza la luce che di sti cose domani umbria, ascolta il vento che picca la porta, incrappa un amico. E Mario, dove ci portano oggi le tue bolle? Lontano. Lontano come che diavolo corre in Russia ogni 5 minuti? Sta acquistando delle proprietà lì? Adoro il posto, mi attira molto. Quei poveracci hanno un cuore immenso. È un'immensa ignoranza e mantengono sempre la parola. Va bene. Casa Russia, a tutto gas, Giovanni, caro Pietrangelo, perché oggi Putin e anche domani è in Cina e firma un contrattino piccolo, 400 miliardi di dollari per la fornitura di gas naturale a Pechino per i prossimi 30 anni. Ah, soltanto? Beh, è una robetta. Vabbè. Si danno da fare. La firma è tra Gazprom e la China National Petroleum Corporation. Le trattative sono durate alla bellezza di 10 anni. In effetti dovevano mettersi d'accordo sul prezzo. E quanto vale l'accordo? Guarda, il 20% delle esportazioni in Europa è per Gazprom, che è il mercato più importante, e per la Cina il contratto rappresenta un quarto del consumo di gas attuale. È una cosa gigantesca. La Russia è il primo partner commerciale della Cina, business da 94 miliardi di dollari nel 2013. Segnalo che la Cina, giustamente, vale i suoi interessi, non ha mai censurato l'azione di Putin in Ucraina. E non è sorprendente, mi pare, no? Si capisce. Esatto, e si capisce. E vuoi sentire anche qualche cosa che vola in aria? Belli sti elicotteri. Allora, no, segnalo, io Giovanni lo faccio senza spirito polemico, però segnalo così a tutti gli ascoltatori, a Pietrangelo Buttafuoco, perché però queste cose le segue, eccetera, che insomma sono stati arrestati un paio di giornalisti russi che avevano rivelato come l'esercito ucraino usasse per le sue operazioni militari, noi l'avevamo segnalato, sì, un elicottero con l'insegna delle Nazioni Unite. Ora, Putin sarà un censore, non sarà un sincero democratico. Ma l'Allegra Brigata di Kiev che cos'è? Eh beh, bisogna chiederlo al capo della CIA che stava lì, no? Certo, è andato in visita, l'ha anche, però anche posso rivelato. Dire, prego. Come diceva il mitico topo della Voce della Fogna, la democrazia è una cosa troppo seria per lasciarla ai soli democratici. Salamino, come... Salamino, Salamino. I sondaggi sono vietati, però mi sono informato, non è vietato consultare la Sibilla Cumana. Mai. Sono andato dalla Sibilla Cumana e ho cercato di capire come andrà a finire dopo queste europee, che risultati si avranno. Allora la Sibilla Cumana, preda di una confusione, mezza briaca, ma poi così magari innamorata della sorpresa, ha detto che ci sarà il sorpasso, cioè... Vabbè. Sì, però Gassman. La Sibilla, il sorpasso, non quello di gas, ma anzi, Gassman, dobbiamo utilizzarlo, ci pensavo ieri, proprio il clacson del sorpasso. Allora, e poi Berlusconi sarà disperso, ma tutto il problema sarà quello di Matteo Renzi, non tanto nel risultato, che comunque sarà un risultato cospicuo, ma nel vedere scatenati addosso a lui i cani, è il caso di dirlo, del suo stesso partito, che cercheranno aspettiamo a vedere, no? Vediamo le urne. Se lo cucineranno, questa Sibilla Cumana, questa Sibilla Cumana mi sembra molto di parte. No, la Sibilla Cumana ha detto pure che lo spread, che alle stelle fino a ieri, tornerà in primo pagina, e Alfonso Signorini su chi farà vedere le foto di Renzi col suo esagerato giro vita, e a Renzi non resterà altro che essere martellato così. Beh, si prendano un altro. Vabbè, noi ci prendiamo la nostra quota rosa. Rispetto. Non so, ma in questi giorni voi l'avete notato che si parla tantissimo di donne sui giornali? Cioè, oh yes. Non so, mi sembra un'esplosione. Ma si parla soprattutto di rughe, ragazzi. Ci stanno appunto, quindi vanno giustamente testimoniate. Quelle di Veronica Lario, che sono state difese da Natalia Aspesi. Ma quelle che, diciamo, mi hanno fatto riflettere sono quelle di Monica Bellucci, che è a Cannes, e alla domanda che gli viene fatta: come vive il traguardo dei 50 anni? Lei risponde: il traguardo dei 50 anni, sono già contenta di essere viva. Quindi, diciamo, una risposta intelligente a una domanda inutile. E poi pensavo anche perché, se un uomo davanti a Monica Bellucci sa solo contare le sue rughe, cioè gli regaliamo una crema contorno occhi, perché per il resto a noi donne serve poco, no Mario? Ma io sono d'accordo con te, poi qualche ruga va bene. E poi un consiglio a tutte noi: usiamo le nostre rughe per ricordarci quanta strada abbiamo fatto. Mamma mia, che saggezza la quota rosa! Il 20 maggio del 99 invece, drammaticamente, veniva ucciso dalle Nuove Brigate Rosse Massimo D'Antona. 51 anni, giurista, docente universitario. Olga D'Antona, la moglie, nella seconda ora a cura di Marina Binone, racconta la storia di quest'uomo mite, riservato, uno studioso al servizio delle riforme dello Stato. Così lo ricorda. Io, nel vedere quello spiegamento di forze, dissi che forse non era un semplice omicidio, ma che probabilmente si trattava di un attentato. Certo, non pensavo che potesse riguardare mio marito. Ma da lì a pochi istanti sentì suonare il citofono e la voce tremante del mio portiere, che mi disse esattamente queste parole: signora, stanno cercando di lei, c'è la polizia, stanno chiedendo di suo marito. Immediatamente capii. Nella seconda ora, la sua storia completa. Intanto Mario, è ancora una bolla prima della viabilità. Senti. Ordine, obbedienza, disciplina. Basta o l'antistorica uguaglianza. Ma perché un ingegnere deve essere uguale a un muratore? Moschettieri! Allora, il Tognazzi, vogliamo i colonnelli, fantastico. E l'ultima moda è che tutti fanno il colpo di Stato, ma dicono che non è un colpo di Stato. È successo in Thailandia poche ore fa, l'esercito ha varato una legge marziale e ha detto non è un colpo di Stato. In Libia la situazione è andata avanti, il generale Haftar ha praticamente liquefatto il Parlamento, il nuovo primo ministro non è più nuovo, è già vecchio, ne cercano un altro, faranno elezioni il 15 agosto, se mai si terranno, ma anche Haftar dice lavoro per il popolo, non è un colpo di Stato. Evviva! Mix 24. Vabbè, nel frattempo ci hanno chiamato Dudu e Aiace. Buongiorno. Allora, abbiamo al telefono i nostri carissimi Dudu e Aiace. Diamo la precedenza a Dudu perché è piccolino e Dudu è tutto di Mario. Oh, tenero Dudu, guarda. No, allora, senti, io ho una domanda. Dopo l'esibizione di Grillo e Vespa di ieri, io non posso non fargliela. Io spero che mi scusi. Mi scuserà Dudu per questa domanda? Sì, dice. Vabbè. Ma non si sente un po' come la persona, l'essere più vicino a Papi, triste? Perché ieri, insomma, Vespa ha dato il posto d'onore a Grillo, che ha fatto un'esibizione che, piaccia o meno, è stata molto efficace. Cosa ne pensa? Sì, l'esibizione è stata molto efficace, decisamente efficace, ma Papi ha già la soluzione. Quale, quale? Per calmierare, sì, mitigare, insomma, per cercare di contenere il successo di Grillo, eh? Ha deciso di dargli Giovanni come? Come? Toti passa al Movimento 5 Stelle. È la notizia di stamattina. Grande Dudu, salto, grazie. Grande salto. Invece io vorrei chiedere ad Aiace, come mai nel plastico che ha portato Grillo da Vespa c'erano tutti, ma D'Alema non c'era? Dov'era? Dottor Minoli, lei si riferisce al plastico della fortezza prigione, immagino. Ovviamente. Bene. Perché mai doveva esserci D'Alema? Ci sarebbe stato? Grazie. Ci sarebbe stato se solo avesse portato un plastico del Quirinale. Lì sì che ci sarebbe stata la faccina del mio leader. Oh, però... Spero di essere stato chiaro. Cioè il candidato di Grillo. Candidato dell'Unità Nazionale Pentastellata Democratica Italo Forzuta Nuovo CD o DDT che dir si voglia. Sono stato chiaro? Chiarissimo, chiarissimo. Può riposarsi, può riposarsi. Grazie, grazie. Oh, Aiace non ha fatto i complimenti a Minoli oggi, è un dato storico. Ha cambiato carattere. Gli è girata sulla questione della fortezza, il Quirinale. Senta, professor Doglio, di solito questa domanda che la faccio a Mario Secchi, ma oggi forse funziona meglio con lei. Buongiorno. Che cosa bolle nel pentolone dei media? Mi sembra che sia in grande movimento. È in grande movimento, le batti che... Dica che nelle ultime 3 settimane sono stati impegnati più di 100 miliardi di dollari su tutta una serie di manovre e progetti che potrebbero cambiare un pochino gli assetti costituiti. Ne parleremo man mano che le iniziative si precisano, perché è inutile entrare nel dettaglio. Naturalmente, ma ci dica intanto qual è il caso più eclatante. E questo è un caso certo, perché è di ieri sera la conferma che la società di telefonia americana AT&T, la famosa, il vecchio colosso, che oggi non è più il colosso di prima, ha offerto a DirecTV, che sì, sarebbe la più grossa delle pay TV satellitari americane, di comprarla per circa 50 miliardi di dollari. È come se Telecom comprasse Sky Italia. Naturalmente il caso è così eclatante perché l'entità dell'offerta è grande, veramente di una dimensione. Ecco, ma è vero che Mediaset Premium è in vendita? Bisognerebbe chiederlo a Dudu, che forse è l'unico che lo sa per certo, però in effetti corrono voci da un pezzo, che stia per arrivare un partner o addirittura un compratore. Io ho qualche perplessità, perché non riesco a capire chi possa comprare un'azienda che brucia cassa, che da 4 anni insegue il pareggio operativo senza riuscirci, che si è appena impegnata a pagare 750 milioni di euro alla UEFA per avere i diritti sulla Champions League triennio 2015. Beh, però è una killer application. Un ottimo asset, ma che difficilmente la toglierà dalla scomoda posizione di numero 2 su un mercato come quello della Pay TV, che in tutti i paesi europei da almeno 10 anni vede un solo operatore attivo. C'è spazio solo per uno, in realtà. Ecco, ma quanto vale secondo lei Mediaset? E anche qua, insomma, secondo JP Morgan 800 milioni di euro, secondo Mediobanca 300 milioni, secondo altri zero, viste le premesse di cui dovrebbe farsi carico un compratore. Senta, ma cosa cambierebbe per i clienti Mediaset Premium un'eventuale acquisizione? Inizialmente nulla. Niente. Poi bisogna vedere chi compra e cosa porta in dote, insomma. Lei sa che i compratori potenziali al momento sarebbero Al Jazeera, che avrebbe chiesto di vedere i numeri, che però con quel che ha investito in Francia con beIN Sport negli ultimi 2 anni, sarebbe strano che si muovesse prima di consolidare quel mercato. Però è vero che l'emiro del Qatar ha altre prospettive dalle nostre. Certo, anche degli altri mezzi. Vabbè, insomma, seguiremo. Altro è Canal Plus. Certo. Canal Plus, che potrebbe tornare sul luogo del delitto dopo, esatto, averci lasciato le penne 10 anni fa. Con Telepiù, certo. Vabbè, insomma, seguiremo con molta attenzione l'evoluzione di questo mercato. Sono evoluzioni importanti. tanti, però vanno viste man mano. Man mano, le seguiremo nel dettaglio. È vero che non sono solo voci. Ecco, intanto Sara c'ha Sara? Sì. No, una cosa ho letto ieri, perché ogni tanto leggo, ma lo sapevate che l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha denunciato che ha ricevuto 600 richieste di adozioni di cani, stiamo parlando di cani, ma ha scoperto che in realtà avevano una finalità elettorale. Cioè? Cioè che erano i candidati stessi alle europee che volevano così un cane last minute proprio per questo successo di Dudu che impera dappertutto. Dov'è? E perché l'hanno scoperto? Perché siccome per un'adozione servono almeno 15 giorni, appena sentivano i 15 giorni dicevano ah no, grazie, non lo vogliamo più, perché ormai erano finite le elezioni. Sarebbe da avere i nomi e ai cognomi. Ai candidati, questa è una cosa molto interessante. Ecco, dopo la pubblicità e il giornale radio... andrà in onda, come abbiamo detto, curata da Marina Milone, la storia di Massimo D'Antona e delle indagini che hanno portato alla cattura delle nuove Brigate Rosse nel 2003.